Sono Matilde Piazzi, autrice del lavoro insieme a Nadia Del Frate di Sorelle d'Italia, Lusso di Resistere. In mostra troverete allestite 12 bandiere di grande formato che rappresentano una marcia vittoriosa delle lavoratrici e 6 ritratti di piccolo formato, come fossero delle icone delle lavoratrici che giocano con l'iconografia di madonne, martiri e santi. Un video in cui ciascuna di loro racconta le ragioni della lotta, le ragioni personali, individuali della lotta, e un manifesto invece collettivo che è il manifesto di Uniche Unite, che è possibile anche ascoltare in mostra scansionando un QR code. Come è nata questa installazione? Questa installazione è nata per due ragioni essenzialmente. La prima è la comune perdita di lavoro, perché Matilde ed io lavoravamo all'interno della produzione e-commerce della Perla e quindi quando la fabbrica di Via Mattei ha spento le macchine anche noi abbiamo visto interrompersi la nostra collaborazione come lavoratrici autonome. Quindi abbiamo anche noi subito un'interruzione di lavoro, una perdita di un reddito e anche la perdita di un ambiente lavorativo. Eravamo un team di donne in cui la qualità delle relazioni aveva un valore umano molto profondo. In secondo luogo abbiamo deciso di realizzare quest'opera perché la lotta delle lavoratrici della Perla è una lotta che ti chiama a partecipare e noi abbiamo sentito l'esigenza di partecipare e la realizzazione dell'opera è il modo attraverso cui noi partecipiamo a questa lotta e la condividiamo adesso con il pubblico e invitiamo il pubblico a partecipare venendo a vedere la mostra. È stato semplice coordinarvi? Sì, sicuramente il contatto che avevamo è stato un elemento che ci ha favorito e che ci ha permesso di entrare in contatto con le lavoratrici della Perla e quindi di avviare questo progetto insieme. Ci conoscevamo già con alcune all'interno della Perla e quindi questo è stato il tramite per entrare in contatto con tutte. Si sono poste come modelle iconografiche di qualcosa di più ampio che va oltre questo specifico caso. L'idea com'è nata? Noi ci siamo chieste come raccontare questa storia e abbiamo subito scelto una strada che non era quella del reportage fotografico perché volevamo appunto rappresentarle, quindi portare il racconto su un altro livello rispetto a quello della cronaca. E i riferimenti sono stati immediatamente quelli dell'arte moderna, quindi la serie è ispirata in realtà a un'opera di Guido Reni che è un artista bolognese, per cui siamo anche rimaste a casa, e i ritratti invece sono venuti un po' per gioco, devo dire, perché durante i giorni in cui abbiamo scattato con loro immediatamente abbiamo incominciato a giocare e anche loro hanno incominciato a giocare con gli oggetti del loro mestiere e sono nati così, quindi un po' ci eravamo già fatte un'idea e poi come sempre accade quando si lavora nascono nuove idee, ecco. Vorrei aggiungere che la scelta anche di non fare un lavoro reportagistico è anche perché la lotta delle lavoratrici della Perla è una lotta creativa, è unico il loro modo di manifestare, è una loro straordinaria capacità anche di coinvolgere il pubblico. Difficile rimanere indifferenti nel momento in cui le vedi, nel momento in cui le senti. Aggiungo solo che questa mostra è stata prodotta grazie a un crowdfunding, proprio perché in qualche modo volevamo anche che fosse partecipata anche alla produzione del lavoro. La mostra girerà, quindi continuiamo a tenere attivo questo crowdfunding su Produzioni dal Basso e vedremo dove arriveremo.